la luna e nei falò corde accordi in osterie piemontesina mi posso danzare con te un valzer di Chopin suonerai legnino leggi io luna nei falò chi sei e quante barche hai nel fiume di Leuco. Addio mia bella, addio, mai ti scorderò. Langhe ubriache che sognate il po', scialumo in de molle o ancora in do, muto senza fiato resterà quando me ne andrò. Pablo la luna e nei falò i soldati vanno in Algeria, c'è una viola al sole ad asciugare luna nei falò. State via, vermi di verle dalla luna e dai falò dalle colline in fior e pazzo è Baudelaire. Mia bella ciao, ciao, ciao, mai ti sposerò. Langhe ubriache che sognate il po', scialumo in bemolle o ancora in do, muto senza fiato resterà quando me ne andrò. Pablo la luna e nei falò i soldati vanno in Algeria, c'è una viola al sole ad asciugare luna nei falò.